24 mattino, l'Italia si desta. Buongiorno, 6, 29 minuti, 20 secondi, tutti pronti, tutti svegli, buona giornata da Anna Migliorati. Questa mattina sarò io con voi per questo 24 mattino. Allora, chissà quanti di voi l'avranno riconosciuta, sicuramente ne faremo da oggi una buffata. È l'inno olimpico, ci siamo, è il venerdì di apertura delle Olimpiadi di Putin, cioè che le ha definite le Olimpiadi dei miliardi e dei giochi sporchi, chi la grande occasione internazionale per la Russia, chi parla di timori di attentati, c'è un po' di tutto. Di certo oggi si comincia a 16:30. Cosa c'è dietro? Quanto sarà uno spettacolo? Quanto sarà un affare questa Olimpiade? Vogliamo parlare anche di questo? Parleremo come sempre di molto altro e andremo sui giornali a raccontare un po' quello che succede, le tante facce del nostro paese, ma non solo. E poi parleremo, già vi anticipo, invece alle 8:30 del cosiddetto lavoro veloce, chiamatelo come volete, telelavoro, lavoro veloce, insomma, per non correre, lavorare da casa. Ieri Milano ha provato a sperimentarlo, ve lo racconteremo. Ma intanto, dicevamo, con un avvio così, non potevamo non andare questa mattina a Sochi, dove c'è la nostra Antonella Scott. Buongiorno Antonella. Antonella, ci sei? Sì, ci sono, speriamo che regga. Speriamo che regga. Questa aiuto. Già è la prima prova per Putin, perché le linee telefoniche fanno una fatica pazzesca a reggere, e vedremo se già dal punto di vista dei telefoni riusciremo a vincere con questa Olimpiade. Allora, Antonella, io già ti dico che questa mattina intanto sul Corriere della Sera c'è una lettera aperta del Presidente del Consiglio Enrico Letta, perché ho deciso di essere a Sochi con i nostri atleti. La leggeremo magari tra un attimo. Ma intanto voglio chiederti un po': tu sei col cappuccino davanti, lo fanno anche lì? Come no, una delle cose, delle presenze italiane a Sochi sono le macchine del caffè, che per fare il caffè, che sono presenti insomma in tutto il villaggio olimpico e quindi anche negli alberghi dedicati ai giornalisti, è una delle cose positive. Ecco, abbiamo portato il caffè anche lì. Allora, sono le 9:30 lì? 8:30. Sì, esatto. 9:30. 9:30. Siamo 3 ore avanti sull'Italia. 3 ore avanti. Virtualmente ce lo facciamo offrire anche noi questo caffè. Silvia Brasca, buongiorno anche a te. Buongiorno, buongiorno. Per noi è ora un po' più complicata che per Antonella a Sochi, eh? Allora, tu le guarderai queste Olimpiadi. Oh, bene, allora ce la facciamo spiegare da Silvia Brasca. Io vi do il titolo del Corriere, perché ho deciso di essere con i nostri atleti. Perché, Silvia, dai, spiegacelo tu allora questa mattina, ti lascio. Io sono contenta che abbia scritto così di questa presenza di Letta, se ne parla al di là degli ambienti della comunità gay, perché su questa decisione, secondo me, c'è stato un silenzio, che se la stessa scelta fosse stata fatta da Silvio Berlusconi non ci sarebbe stato. Un putiferio sarebbe stato. Sarebbe stato un putiferio. Mentre qua tutto la vedo in prima pagina con una bella evidenza, perché ha scritto, non sono assolutamente d'accordo con quello che scrive, trovando forse la mattina poi fatta attiva, però una lettera non profonda, abbastanza banale. Sì, guarda, alla fine dice: non spiega niente. Esserci significa esprimere una dimensione pubblica, il ruolo dell'Italia, smettere ma rafforzare il nostro ruolo. Insomma, dice e non dice. Antonella, la verità è che forse non possiamo proprio così permettercelo di tagliare i ponti con Putin. Sono cattivella anch'io? Cioè, questo è vero che la Russia dipende, l'Italia dipende dalla Russia dal punto di vista energetico, ma sarebbe, forse in questo momento non è soltanto questo, dobbiamo ricordare che l'Italia sta avanzando, si sta proponendo come candidata alle Olimpiadi del 2024 e quindi questo è uno dei momenti, nel momento in cui ci sono qui i dirigenti del CIO, è importante, è un momento importante per far progredire, per convincere, per raccogliere consensi e quindi sicuramente il fatto che la Russia possa essere di sostegno all'Italia potrebbe anche essere un altro degli elementi che sono stati presi in considerazione. Quello che diceva ieri il presidente del CONI, ci diceva qui a Sochi Giovanni Malagò, è che è possibile, conoscendo l'ETA, che approfitti di questa occasione per fare qualche dichiarazione, una dichiarazione che qui avrebbe una valenza diversa, più importante, quindi come dire… Più microfoni, più mondo mediatico, insomma. O comunque esserci, parlare piuttosto che restare assenti, forse una dichiarazione a favore dei diritti civili in Russia fatta qui, se la farà, avrebbe una valenza importante. Allora, 349-238-6666 come sempre per i vostri messaggi, e qui si aprirebbe anche tutto il discorso se vale o non vale fare organizzare per l'Italia un'Olimpiadi. Allora, io ho letto anche, Antonella, che abbiamo detto tutto su questa Sochi, il mare, le palme insieme a... Innanzitutto è vero che si può fare il bagno e sciare nello stesso giorno, hai provato? Sì, no, provato sì. Purtroppo no, perché noi qui adesso per noi sciare, per noi persone normali sciare è vietato, dato che il comprensorio è completamente dedicato alle Olimpiadi, alle gare. È vero che ci sono nel giro di un'ora di adesso, poi con il trenino veloce c'è la possibilità di vedere, di essere sulle piste da sci e poi di scendere sulla spiaggia, che poi tra l'altro in questi giorni Putin è fortunato, le Olimpiadi sono fortunate perché c'è un tempo splendido e quindi è bellissimo. Quanti gradi ci sono a Sochi, Antonella? Ma dunque di notte non si va sotto lo zero, cioè questo, scusate, intendo in montagna, quindi a Krasnapoliana, non vanno sotto 1-2 gradi di notte, di giorno siamo sui 10 gradi, 12 gradi. E al mare arriviamo? Secondo te? Più o meno lo stesso, perché poi la base di Krasnapoliana non è altissima, è a 500 metri, la partenza degli impianti è a 500 metri, naturalmente poi salendo, infatti il villaggio olimpico montano è dopo il primo troncone di Ovovia e invece lì sì, c'è neve, si può andare, si va, spero per loro, sotto lo zero, in sotto modo lo che zero. Regga la neve bella che ancora e soprattutto c'è. Che regga, esatto, ma io leggevo che, allora, già tanto per farci del male, questo impianto ricorda soprattutto quello del salto, da quello che ho capito, quello di Pragelato, la nostra eredità olimpica dei giochi di Torino 2006, un grande impianto che deve diventare chissà cosa e resta lì inutilizzato, e hanno un po' imparato da noi, che dici? Forse hanno fatto ben oltre, è davvero incredibile, questo qui di cui ricordavi del trampolino per il salto è veramente incredibile, perché in una regione che comunque è nata dal niente, non esisteva come località sciistica se non a livello molto semplice per i locali, a livello molto rudimentale, creare un impianto simile che è costato, naturalmente poi i costi sono gonfiati sia per quello che si sospetta di corruzione tangente a ogni passo, ma anche perché non era una zona adatta per costruire una cosa simile, pare che il trampolino scivolasse perché il terreno sottofranava, insomma i costi sono lievitati tantissimo e ora resterà un trampolino che davvero mi chiedo chi dopo le Olimpiadi potrà mai usare, quando invece veramente la regione avrebbe un gran bisogno di infrastrutture un po' più utili per gli abitanti. Allora, chi è già sveglio tra i nostri ascoltatori, lo chiedo anch'io, al 349-238-6666, siete mai stati poi su un impianti olimpici costruiti, ne abbiamo anche in Italia, parlavo appunto di Pragelato, queste eredità poi servono o no? Tu che ne pensi, Silvia? Ma io penso che a Torino è servito, cioè al di là appunto di qualche caso specifico, sicuramente quello litigio invernale è stato un punto di svolta per la città, come spero possa essere l'Expo per Milano. Vedo le difficoltà quando a Milano del progetto Expo citato nella lettera di Letta, e quindi su Roma ho sempre delle perplessità in questo momento. Tra l'altro l'annuncio venne dato appunto del viaggio di Letta a Mosca il giorno in cui Roma era sotto l'acqua, con dei problemi, la città che dei problemi evidenti quotidiani, come tutte le grandi città, ecco, e deve fronteggiare una crisi che sta fronteggiando l'Italia. Insomma, viene molto difficile, bisogna essere ottimisti. Alla Monti non possiamo permettercelo, insomma, tu sei della linea Monti. Ecco, io recupererei alcuni grani di saggezza di Monti che abbiamo dimenticato. Ecco, in questo momento non lo trovo necessario, ma io non ne capisco molto, ecco, non sono... Faccio un discorso, diciamo, più domestico. Economia domestica, ma qualche volta vale anche quella. Qualche volta vale anche quella. Antonella, è vero che ci sono anche gli UFO a Sochi? A questo punto ne abbiamo sentite tutte. Questa mi mancava. Dai, anche a me. Ecco, vedi? L'ultima chicca è spaziale. Sochi è anche un posto caldo all'ufologia, per testimonianze nel corso dei secoli di numerosi avvistamenti. E questa, vedi, mancava questa, mancava anche a te. Questa mancava anche a me, anche se dalla cerimonia inaugurale di questa sera ci aspettiamo di anche tutto, gli UFO. Hanno creato delle grandi aspettative, sì, di effetti speciali, insomma il momento all'interno delle Olimpiadi, che sono il momento che Putin aspettava da anni per rilanciare la Russia, la cerimonia inaugurale è proprio al centro di tutto, e quindi allora, hanno promesso, tenendole misteriosissimi, delle adesso cose ne parliamo. Adesso essere. Ne parliamo di quello che sai, di questo misteriosissimo. Nel frattempo un ascoltatore al 349-238-6666 ci ha scritto che quest'anno Pragelato non ha aperto gli impianti per mancato accordo sulla gestione. E quindi, insomma, non è che ci facciamo una bellissima figura. Silvia, qualcuno è già d'accordo con te invece, perché un altro ascoltatore ci scrive: qualcuno si rende conto che in Italia non si riesce a gestire la normalità, frane, alluvioni, strade, facciamo le Olimpiadi con l'unica specialità di ridurre il debito pubblico. Lea per l'apertura, la cerimonia di apertura, Silvia Brasca, è la cosa che si guarda delle Olimpiadi subito, tutti, ci sarà anche, certo, si inizia, la guarderemo alle 4:30, giusto Antonella? No, per l'Italia alle 5:14. 17:15. Perché qui saranno le 20:14, ormai da Pechino è stata introdotta questa finezza di farlo nell'orario che rispetta l'anno in cui si giocano, si svolgono i giochi, quindi era 20:08 a Pechino e qui siamo al 20:14, quindi appunto 3 ore di differenza. Vedi, allora chiedo scusa anch'io, questa non la sapevo, quindi 20:14 perché siamo nel 2014. Esatto. E così ce la ricordiamo. Segretissima, sempre segretissima, un po' più del solito. Sì, beh, come si fa qui, siamo in Russia, però qualcosina sta cominciando a venire fuori, perché dalle persone che hanno potuto assistere alle prove, e se quello che si sa per certo è che sarà una grande carrellata, come è successo anche per Londra, della storia russa, e quindi si parla di Galeoni, di Pietro il Grande o della Troica alata di Gogol, la slitta che corre, che rappresenta la Russia. La cosa su cui si dovrà concentrare l'attenzione è come verrà coperto il periodo sovietico, il periodo staliniano. È stato detto che probabilmente ci sarà qualcosa che ricorderà l'industrializzazione degli anni di Stalin, però già questo potrà essere oggetto di controversia, se si ricorderà soltanto di quel periodo, soltanto l'economia e non magari le vittime e tutto quanto di negativo c'è stato. E lì già è la prima sfida, perché ci sarà il mondo a vedere. Esatto. Silvia, secondo te quale potrebbe essere il colpo grosso di Putin? Putin in questa cosa. Allora, la regina Elisabetta si è calata dall'elicottero e... che si può fare di più? Vabbè, lui l'abbiamo visto arrivare col leone, visto che lì caccarezze di grossi, non lo so se si potrebbe abitare, riprendere quella corsa allo spazio. Quindi mi ricordo alle Olimpiadi di Los Angeles, quello che arrivò dal cielo, ecco, senza paracadute. La staremo a guardare, insomma, per questa grandezza della grandezza russa, insomma. C'è da dire che loro di soldi ne hanno spesi tanti, poi ne parliamo magari per raccontare come è stata costruita Sochi. La collega del Sole lo sa bene, ne abbiamo anche lei stata sì, e non c'era nulla. Antonella, tu l'hai girata anche in questi giorni. Beh, è un'altra cosa. Assolutamente ririconoscibile, non tanto Sochi, perché poi appunto la confusione nasce dal fatto che qui le Olimpiadi, cioè il villaggio olimpico costiero, in realtà non è a Sochi, ma in una Adler, vicino ad Adler, che è dove c'è l'aeroporto, è stato costruito qui e siamo a una trentina di chilometri da Sochi. Poi c'è appunto l'inizio della valle, quindi c'è la valle e per altri 50 chilometri si va fino ad arrivare appunto al comprensorio di Krasnaya. E tutto quello che è stato costruito è davvero, la trasformazione è incredibile rispetto anche solo a 2 anni fa, è però sicuramente in parte utile per quanto riguarderà i trasporti, però è assolutamente finalizzato agli impianti olimpici. Quindi per esempio in questa valle c'è la strada nuova, la ferrovia, che però sfiorano, non arrivano, non c'è neanche una stazione a Krasnaya Poliana, che invece è l'unico centro autentico, vero, dove vive la gente, che c'è sempre stato. La ferrovia invece, ci sono addirittura 2 stazioni incredibili, super moderne, sicuramente costosissime, che si fermano, una appunto al trampolino, a Stostadok, dove c'è il trampolino di cui parlavamo, e l'altro dopo neanche 10 minuti di treno a Rosa Kutor, che è questo un comprensorio anche qui dall'aria fiabesca ma nuovissimo, un po' senza anima, il cui futuro è completamente incerto. Ma un po' senza anima, questo ce l'hai detto. Mi fanno segno dalla regia, c'è anche la nostra di viabilità che ci aspetta, se no mi bacchettano questa mattina, però dopo ripartiamo ancora da qui, tra pochissimo. 24 mattino. E allora, Antonella Scott da Sochi sarà la colonna sonora dei prossimi giorni, Antonella. Ce la sentiremo ovunque. A voi svegliano già con questa al villaggio olimpico? Scusami? Dico, voi la sentite già risuonare al villaggio olimpico da giorni o tutto sommato vi stanno un po' risparmiando? Ma in realtà forse ci stiamo risparmiando, perché comunque si è talmente presi a correre, a cercare di seguire il più possibile, che ecco, questo no, anche in sala stampa un tormentone è un video che ripetono sul viaggio della fiaccola, la fiaccola che ha voluto attraversare tutta la Russia e 65.000 chilometri. Ve lo stanno mandando... Ecco, ogni giorno a manetta. Però forse meglio quello dell'inno olimpico. Senti, c'è un nostro ascoltatore che al 349-238-6666 ci scrive: quindi se quest'anno partiamo alle 20:14, perché siamo nel 2014, nel 2060 che facciamo? Vabbè, ci manca ancora, insomma. Sì, direi di sì, il guaio sarà dopo il 2400, allora dopo le 24 ore sarà il problema, ma per ora ci arrangiamo tra le 8 e le 9. Silvia Brasca, ma tu che idea ti sei fatta? Perché questo poi è un rito alla fine, dai, ma anche alcuni nostri ascoltatori ci dicono ma cominciamo già, ma poi tanto saremo tutti a parlare di quello, anche chi non le vede poi, Sei d'accordo con me? Certo, poi come sempre quando poi si inizia, se tutto fila liscio alla, se Dio vuole, a vincere, per usare una frase molto retorica, lo sport. Uso la stessa retorica del presidente Letta, una lettera che ripeto molto modesta e che lo spiega. Lì è che quando queste cose succedono in un paese con un problema grande o come una casa sui diritti civili, e lo stesso fu anche per le Olimpiadi di Pechino, le riflessioni vanno fatte. Insomma, io non sono un'esperta di sci di fondo di Trentino, non saprei cosa dire. Ma c'è anche molto altro da vedere, diceva prima Antonella questa sera come verranno trattati certi temi nella cerimonia d'apertura, e poi la questione dei diritti dei gay, che ci sarà da vedere se qualche atleta poi prendendo la medaglia lo strappo lo farà. Che ne dica, anche Pescante ha detto basta politica nei giochi, ma non possono non essere, non può non esserci. Posso aggiungere una cosa, Anna? Certo. La cosa che tengo molto. Perché Letta andrà a Sochi e via, però c'è stata una mancanza grande come una casa, secondo me, dello Stato in tutta una vicenda, e soprattutto ieri quando sono stata in Calabria ai funerali di quel bambino Cocò ammazzato in quel modo, bruciato nella macchina. Una vicenda di una regione, di uno Stato, fa tanta fatica a esserci, e che non è totalmente trascurata dal nostro ministro degli interni Alfano, che ha i problemi di formare appunto la sua nuova formazione, dal primo ministro, dal ministro della giustizia, se ne è ricordato Papa Francesco. Ecco, questo ci tengo a dirlo, perché è una vicenda bruttissima, di un bambino di 3 anni. D'accordissimo. Morto in quel modo, con un'assenza totale dello Stato. Punto, scusate. No, ma d'accordissimo. Guarda, poi questo lo sai che con Alessandro è anche uno spazio in cui giustamente dare anche, parlare anche di queste cose e buttarle anche lì. Mi sembra giustissimo. Anzi, c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che ci chiede anche la famosa segreteria. Lunedì con Alessandro la ritrovate. Promesso, non vi preoccupate, la segreteria ritornerà. Ovviamente con anche tutte queste cose, perché al di là poi delle chiacchiere che stiamo facendo, giustamente è il caso anche di ricordare queste. Io colgo anche un'altra occasione, perché prima Antonella ci diceva corro da una parte all'altra in sala stampa, ma probabilmente non è l'unica a correre sempre. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. Non vi chiedo a che ora mettete la vostra sveglia, la nostra è davvero molto presto, ve l'assicuro. Come fare, come evitarlo? Ieri Milano ha sperimentato, si chiama lo smart job, il telelavoro, chiamatelo come volete, lavorare da dove si è per non puntare così presto la sveglia. Ci credete? Si può fare? Già vi anticipo, è il tema di cui ci occuperemo attorno alle 8:20. Nel frattempo, lasciando che oggi davvero si apra questo scenario olimpico di Sochi, ci sarà davvero il tempo per tutte le considerazioni possibili. Io saluto Antonella Scott da Sochi, buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro e buona giornata a voi, grazie. E anche la collega Silvia Brasca, giornalista della 7, buongiorno, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buongiorno e buon lavoro a tutti. Silvia, ti dico solo una cosa, temevamo per la linea telefonica di Sochi, temevamo, ti dico che questa mattina forse ci abbiamo fatto una figuraccia peggiore dall'Italia, perché non si sentiva benissimo, è andata così. Vedremo come andranno queste Olimpiadi, grazie anche a te. Nel frattempo c'è il nostro GR24, torniamo subito dopo con la rassegna stampa. 24 mattino. Minuti, ancora una buona giornata, un saluto questa mattina ancora da Anna Migliorati, e Alessandro Milan tornerà con voi come sempre lunedì, ma puntuali ci sono i giornali in edicola e quindi la nostra rassegna stampa. E rassegna stampa che si apre con quello che è un po' il titolo tormentone oggi su tutti i quotidiani, vale a dire dedicato alla politica, l'ennesima sfida tra Letta e Renzi per definire

diretti meriti scientifici su posizioni finanziate ad hoc. Insomma, attenzione, attenzione, c'è il nuovo comitato di esperti. Questa volta per andare a vedere quali sono il cervelli all'estero che dovremmo far rientrare in Italia. Intanto chiamiamo degli esperti e facciamo l'ennesimo comitato. La Stampa questa mattina, il caso lì per il rientro degli scienziati. 7.53, abbiamo pochissimi secondi, siamo di corsa, di corsissima. Attenzione tutti voi che siete in corsa perennemente, vi voglio qui ancora alle 8.20 perché proprio di questo, di come evitarlo, forse parleremo più tardi, ma intanto se proprio vi avanza ancora del tempo nella vostra giornata, prendete il Corriere della Sera, pagina 23, imperdibile, la metamorfosi del gabbiano da eroe letterario a incubo in città, una pagina intera dedicata ai gabbiani. Se proprio avete tempo, c'è anche questo. Noi di tempo ne abbiamo pochissimo, ne parleremo anche alle 8.20, subito dopo GR24. 24 mattino. Arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8.30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a metterla alle 7.51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. E voi a che ora la mettete la sveglia al mattino? Le 8, 19 minuti, 30 secondi, ancora una buona giornata da Anna Migliorati, noi l'abbiamo messa prestissimo, non ve lo diciamo neanche, ma io sono della linea Fantozzi, fino all'ultimo respiro di sonno, perché vi abbiamo salutati così in quest'ultima parte di Mattino 24 questa mattina? Perché c'è chi vuole provare ad evitare tutto questo, ad evitare il traffico, le code più lunghe del solito, come si ha detto poco fa il nostro appuntamento con la viabilità. E allora ieri al Comune di Milano è stato fatto un esperimento, la prima giornata per quanto riguarda il Comune di Milano del cosiddetto smart working. All'italiana il telelavoro. In sostanza si lavora da casa o da dove si è, dal bar, dal parrucchiere, dal medico, da dove volete, purché si lavori da casa, si risparmia il tempo di arrivare, andare, tutto lo stress, ma si sta a casa per gli affari propri a lavorare. Vi piacerebbe? Lo fareste? Sarebbe secondo voi una soluzione? Allora, ieri ci hanno provato a Milano 5.679 impiegati, dipendenti e professionisti di 103 aziende grandi, medie, piccole, cooperative ed enti pubblici, oltre allo stesso Comune di Milano, che ha lasciato 200 lavoratori a casa per svolgere così le loro attività. 349-238-6666 come sempre per i vostri messaggi, 800-24-00-24. Ho bisogno di tempo per svegliarmi, l'appunto solitamente 50 minuti prima di uscire alle 5.45, ci scrive Marco, come orario già anche il suo non è male, quando lavoro da casa lavoro il doppio, ci dice Giovanni. Insomma, che ne pensate? Si risparmia tempo? Si risparmia stress? C'è anche chi pensa che si risparmino soldi. Saluto Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Quanto si risparmia lavorando da casa, al di là delle sveglie? Qui arrivano orari di tutti i tipi, 4.40, 5.45, c'è da dire che con i nostri ascoltatori ci si consola un po'. Quanto risparmieremmo lavorando da casa? Noi lo abbiamo calcolato in alcuni progetti che abbiamo seguito, e la media di risparmio per persona che abbiamo trovato in costi vivi è di 550 euro all'anno, su una percentuale di home working intorno al 40%, quindi diciamo due giorni alla settimana con possibilità di lavorare da casa o da altri luoghi. Quindi già un bel smart working, home working, telelavoro, è sempre la stessa cosa? Così chiariamo subito, più o meno. Assolutamente no, perché il telelavoro tradizionale è un dare vincoli diversi, cioè telelavoro tradizionale vuol dire che la persona è vincolata a lavorare da casa e l'azienda, diciamo, che trasferisce le medesime responsabilità che ha sul nello spazio di lavoro nella casa del dipendente. Invece smart working è lasciare all'azienda e al dipendente la possibilità di ridefinire quelle che sono le modalità di lavoro, sia in termini di luogo di lavoro che di orario di lavoro, e questo anche in modo flessibile. Smart working vuol dire anche rivedere la funzione dell'ufficio, l'ufficio che diventa un luogo, non l'unico luogo dove si lavora, ma un luogo dove ci si ritrova, si collabora, si incontrano i clienti, insomma un luogo che sia più efficace a seconda delle diverse esigenze che il lavoratore ha. Meno stress, lavoro più agile, poter conciliare, però Giovanni ci scriveva anche: quando lavoro la casa poi lavoro il doppio. Allora 800 24 00 24, vi ricordo anche il nostro numero verde, c'è anche questo rischio. Io saluto Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro alla Bocconi, buongiorno. Buongiorno a lei. Che sul Corriere della Sera l'altro giorno, proprio alla vigilia di questa giornata di prova a Milano, qualche dubbio l'ha avanzato. Perché? Perché è chiaro che questo tipo di lavoro libera moltissime possibilità e effettivamente consente ai lavoratori di godersi anche più il tempo e conciliare le esigenze di vita con quelle di lavoro, ma dall'altra parte rischia anche di diventare molto pervasivo, direi quasi onnicomprensivo di tutta la sfera privata e del tempo in generale del lavoratore. Cioè, pensiamo quando siamo a casa e abbiamo comunque il nostro smartphone attaccato con la mail aziendale che continua a mandarci dei nuovi messaggi, pensiamo al fatto che durante il fine settimana comunque noi ci sentiamo in qualche modo in dovere di rispondere alle varie richieste. Insomma, non smetteremo mai di lavorare. Filippo ci scrive: non funziona da casa perché a lungo termine si perde anche il time working e la motivazione, otterremo una serie di zombie. C'è anche questo rischio? C'è il rischio di perdere appunto la distinzione fra lavoro e vita privata, e soprattutto questo passaggio così repentino da un'idea di lavoro classicamente organizzata all'interno del luogo di lavoro e nei tempi, negli orari, timbrare il cartellino, ad una idea completamente, diciamo, ubiquitaria del lavoro, richiede, a mio modo di vedere, un po' di regole, cioè sapere esattamente quanto io sto lavorando e quindi anche valorizzare quali sono comunque i miei doveri, perché lavoro da casa, ma i doveri ci sono. Che io lavoro da casa, insomma. Dipende dal tipo di lavoro, ci scrive un altro ascoltatore: conosco persone che userebbero anche i figli e la moglie al loro posto stando a casa. Mariano Corso, in questo osservatorio smart working del Politecnico di Milano, tutto questo in qualche modo l'avete quantificato? Il costume italico permetterebbe tutto questo? Purtroppo l'Italia parte molto da lontano in termini di cultura e anche di regole. Noi abbiamo sul telelavoro tradizionale delle percentuali bassissime rispetto ad altri paesi. Per darle un'idea, noi siamo tra il 4 e il 5%, la Danimarca oltre il 15%. Quindi partiamo molto da lontano. E c'è sicuramente una serie di remore culturali, però noi abbiamo misurato due cose. Uno, su un panel significativo di lavoratori abbiamo chiesto quali attività potrebbero meglio essere fatte da remoto, e siamo arrivati a percentuali vicine al 40%, il 40% del lavoro che facciamo lo potremmo fare senza lo spostarci. Potremmo fare meglio da casa. Calcolando anche le possibilità tecnologiche dell'Italia, perché poi la connessione c'è, non c'è, salta, siamo pronti? Anche su questo versante. Ma credo che ci sia ancora da fare, però sostanzialmente la tecnologia non è più un vincolo, quindi oggi anche i nostri mezzi personali ci consentono di fare moltissimo e gli stessi sistemi informativi delle aziende sono accessibili da ovunque potenzialmente, quindi certo bisogna attrezzarsi, ma è possibile e infatti noi abbiamo misurato, abbiamo accompagnato le imprese che vogliono farlo in dei test pilota e per poi misurare i benefici e sono veramente, veramente impressionanti. Allora, c'è anche chi scrive: la mia azienda lo fa da tempo e la mia qualità della vita è diventata migliore. Al 349-238-6666 per i nostri messaggi. C'è anche chi mi dice però che la mia, da quando lo faccio, la mia vita privata e il lavoro si sono un po' mescolati. Il rischio effettivamente c'è. Eppure non è stato solo un esperimento di Milano, perché c'è una proposta di legge, un progetto di legge sul cosiddetto smart working. L'hanno firmato 3 deputate, guardate bene, probabilmente non a caso donne, e sono Irene Tinagli di Scelta Civica, Barbara Saltamartini del Nuovo Centrodestra, veramente bipartisan, e Alessia Mosca del PD, che io saluto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. 24 mattino. Io corro dalla mattina quando mi sveglio alla sera quando vado a letto e molto spesso corro anche nel sonno. Faccio chilometri e chilometri in sogno e la mattina mi sveglio già esausta. Corro, come nella storia del leone e della gazzella, solo che io non vivo nella savana e non sono il leone e non corro per mangiare la gazzella e non sono nemmeno la gazzella e non corro per non essere mangiata dal leone. Corro per essere una brava madre, una buona moglie, una persona affidabile nel lavoro e anche un po' per cercare di esistere per conto mio. Corro tanto, ma non ce la faccio mai. Chi si è riconosciuto? Una striscia quotidiana nella quale in tantissimi si sono riconosciuti. Correre, correre, correre per riuscire a fare tutto. Chissà se il cosiddetto smart working forse ci può aiutare. L'ha sperimentato ieri il Milano, in moltissimi hanno aderito, forse lo fa tutti i giorni, forse questo problema non ce l'ha. Maurizio da Genova che ci ha telefonato, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei queste scene non le vive? No, diciamo che le vivo, ma in maniera solo qualche giorno alla settimana. Perché lavora da casa? Io sì, quando posso lavoro da casa. Ci siamo organizzati con posta elettronica, computer, via, solite cose, fax e tutto. Si riesce tranquillamente a lavorare. Lo sapeva che si chiama smart working? No, ma me lo immaginavo, visto la comodità. L'unica cosa che diciamo che manca secondo me è il rapporto con gli altri colleghi, quello effettivamente è una cosa che non si può sopperire con una mail o con altri sistemi, e quindi una volta alla settimana comunque ci vediamo con gli altri colleghi e per pianificare il lavoro. Una rimpatriata. C'è chi sta pensando di costruire così, in qualche modo, anche il sistema di lavoro del futuro. Alessia Mosca, buongiorno ancora. Buongiorno a tutti. L'ho fatta un po' attendere, però io volevo un po' capire cos'è questa proposta di legge che avete presentato in 3, e dicevo forse non a caso anche 3 donne. Sì, intanto 3 donne, perché questa è un'esigenza, come l'avete raccontata, che nasce soprattutto dalle donne, quella relativa alla conciliazione tra la vita familiare e la vita lavorativa, ma che poi, come abbiamo visto, in realtà tocca tutto il sistema lavorativo, uomini e donne indifferentemente. E la nostra proposta è di fatto il tentativo di allargare e rendere accessibile a tutti, dipendenti e tutte le imprese, questa modalità di lavoro. Oggi noi abbiamo una normativa nazionale che è legata al tradizionale telelavoro, che è, come si raccontava prima, qualcosa di diverso rispetto a quello che chiamiamo oggi smart working, perché il telelavoro intanto era pensato su una tecnologia che certamente oggi è più che superata, e comunque aveva degli elementi anche di negatività che con lo smart working possono essere superati, per esempio il fatto della segregazione. Il telelavoro era normalmente al 100% un lavoro da remoto, e questo ovviamente sì, ci spiegava anche prima Mariano Corso, adesso si fa qualche giorno Esattamente, è una modalità flessibile, non solo qualche giorno, ma talvolta anche solo qualche ora, consentendo così di evitare quelle burocrazie molto pesanti nelle aziende, della richiesta di permessi, del recupero di permessi. Semplicemente si crea un rapporto diverso tra lavoratore e tra l'impresa, individualmente costruito in base alle esigenze e che va a focalizzarsi sugli obiettivi da raggiungere più che sulle ore di presenza fisica sul luogo di lavoro. Allora, le chiedo innanzitutto a che punto siamo. L'avete presentata, quindi siamo alle primissime battute, insomma, diciamo tempeste permettendo, forse se ne discuterà tra qualche mese, o acceleriamo? Dunque, l'iter è stato piuttosto rapido, nel senso che noi abbiamo preferito seguire una modalità che per altre proposte nel passato mi era stata molto di aiuto. Cioè, noi abbiamo presentato una bozza che abbiamo messo online, l'abbiamo distribuita e abbiamo per un mese ricevuto commenti, ricevuto correzioni, e il testo che è uscito dopo questa consultazione è piuttosto diverso rispetto alla nostra proposta iniziale, perché abbiamo modificato in base alle esperienze di chi già Questo potrebbe accelerare? Questo intanto ha superato una serie di possibili ostacoli e quindi diciamo che già si è fatto un passo in avanti. Dopo un mese abbiamo depositato, e questo è avvenuto la scorsa settimana, abbiamo depositato la proposta e abbiamo contemporaneamente però tentato di intervenire su altri veicoli normativi come per esempio il decreto che è in discussione proprio in questi giorni alla Camera, il Destinazione Italia, nel quale abbiamo tentato di inserire alcuni aspetti, per esempio degli incentivi economici per le aziende che decidono di utilizzare lo smart working. Quindi il nostro tentativo è parallelamente portare avanti la proposta di legge, ma sappiamo che i tempi sono un po' lunghi e dall'altro lato però tentare di capire se ci sono dei veicoli più veloci, che magari siano dei decreti del governo che sono in preparazione e che quindi hanno una maggiore rapidità di conversione. Ve lo siete posti ad esempio il problema della banda larga, però, perché per lavorare fuori dall'ufficio l'Italia dovrebbe essere anche attrezzata a questo, ad esempio? Sì, intanto si ricordava prima, è vero che il nostro paese è molto in ritardo rispetto alle infrastrutture tecnologiche, però per fare quei compiti che sono previsti dallo smart working, in realtà oggi già abbiamo la tecnologia sufficiente, quindi di fatto, per quanto ci debbano essere fatti ancora molti passi in avanti rispetto alla copertura di banda larga e ultralarga, però la tecnologia attuale già consente di fare molto. Già consente, anche Mariano Del Corso prima ci ha detto la stessa cosa. Ci sarebbe molto da modificare nella nostra legislatura, Maurizio Del Conte. Tra l'altro adesso vi dico, vi stanno arrivando anche tantissimi messaggi, 349-238-6666, chi è pro, chi è contro, ci sono i problemi ovviamente della tecnologia che state ponendo, c'è anche chi dice il mio camion non lo posso guidare, ma vabbè, abbiamo detto il 40% del lavoro si può fare, non è che potremo tutti eventualmente lavorare da casa. Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro alla Bocconi, c'è molto da cambiare nelle nostre leggi sul lavoro per fare una cosa del genere in Italia? Allora, la nostra legislazione sul lavoro è sostanzialmente ispirata al vecchio classico modello del lavoro nell'azienda entro determinati limiti abbastanza rigidi di orario. In realtà la proposta presentata dalle tre deputate già individua la strada per uscire da questi limiti e in particolare ci dice che al posto dell'orario noi dovremmo utilizzare come parametro di valutazione della prestazione del lavoratore i risultati. Questo è molto importante, nel senso che credo che sia anche molto motivante. E apre anche un'altra questione, perché io ve li ho risparmiati, stanno arrivando tutti i messaggi, ma tra poco ne parliamo anche noi anche di questa ipotesi. Nel privato può funzionare, nel pubblico c'è la schiera dei fannulloni, ci scrive un ascoltatore che non si firma. Si andrebbe a quel che si fa più che ore, giusto? A quel che si fa, però ecco appunto, forse qui il nodo viene al pettine, cioè come valutiamo questi risultati. Questo non è un passaggio del tutto scontato, nel senso che è molto importante che all'interno del pacchetto smart working proposto dall'azienda vi sia anche un chiaro codice di valutazione dei risultati attraverso il quale il lavoratore conosce esattamente quello che verrà premiato e quindi è anche stimolato. Non a caso, giustamente ricordava prima l'onorevole Mosca, questo progetto è anche inserito fra quelli destinatari degli incentivi per l'aumento di produttività, perché lo smart working può essere davvero una modalità incentivante che quindi alza il tasso di produttività delle nostre aziende. Allora, la mia azienda lo permette, ci scrive Barbara, e praticamente non si mette più nessuno in malattia. Quando mi capita di lavorare a casa senza interruzioni, concludo di più e non peso sull'INPS se non sono proprio malata. C'è anche questo, cioè io non sto benissimo, non ci vado al lavoro, ma magari da casa qualcosa faccio. Certamente, anche qui bisogna però coniugare il lavoro con le esigenze di tutela della sicurezza dei lavoratori e della salute. In altre parole, non è pensabile che se io sono malato debbo recuperare il tempo di lavoro perso durante la malattia, magari che so, durante il fine settimana necessariamente oppure durante la notte. È chiaro che ci deve essere, appunto, come dicevo prima, un regolamento interno che spiega bene quali sono le condizioni, in modo che anche al lavoratore smart worker sia concesso non sia di essere malato, H24, insomma. Esatto. Alessia Mosca, ve lo siete posto questo problema? Sì, certo, anche se in realtà oggi già c'è una pervasività piuttosto forte e in più però c'è anche l'orario fisso, quindi diciamo che... Cioè ho l'orario fisso, poi ho il telefonino, lavoro lo stesso H24. Esatto, quindi la tecnologia oggi ci fa essere comunque sempre connessi. Quello che cambia profondamente con una... diffusione dello smart working è un rapporto diverso che deve essere di maggiore fiducia tra il capo e il proprio dipendente, perché c'è una valutazione dei compiti che devono essere fatti, un risultato che deve essere portato entro certi termini. Certo. E tutto questo viene poi valutato secondo parametri. Ci deve essere anche un cambio molto forte della cultura manageriale. Di come si lavora. Allora ne parliamo tra pochissimo, vi chiedo ancora un attimo di pazienza, abbiamo ancora una pausa per il traffico, perché al lavoro ci deve andare anche questa mattina, e poi avremo anche qualcuno che l'ha provato, tra poco. Siamo un paese da smart working. Mattino. L'Italia si desta. Potremmo destarci davvero un po' più tardi e il lavoro farlo da casa, dal parrucchiere, dal parco, dal bar, da dove vogliamo? Sono molti i messaggi che ci stanno arrivando e che hanno anche così fatto emergere un tema che non potevamo non aspettarci, vale a dire gli impiegati pubblici che farebbero. A Milano ieri si è inaugurata questa giornata di prova, ma c'è chi lo fa questo smart working. Allora io saluto Letizia Villa, buongiorno. Buongiorno. Assessora al personale di Cinisello Balsamo, che è un paese alle porte di Milano. Com'è andata? Gli ascoltatori ci hanno tempestato di messaggi. Che faranno gli impiegati pubblici, farebbero con questo smart working? Com'è stata la vostra esperienza? Ma la nostra esperienza è positiva, tra l'altro noi dal 2012 abbiamo dei lavoratori in telelavoro e quindi è, diciamo, un esperimento che è già partito. Telelavoro smart working, perché questa mattina siamo... Sì, certamente. Metà e metà, insomma. Metà e metà, esatto. E comunque è un'esperienza assolutamente positiva, i dipendenti che ce l'hanno chiesto e comunque che sono stati coinvolti in questa fase, diciamo, sono persone che o per motivi di salute o per eccessivi tempi di percorrenza lavoro-casa hanno chiesto di utilizzare questa possibilità. Allora, si sente poco, proviamo a richiamarla. E allora torniamo anche ad uno di questi problemi. Mariano Corso, responsabile scientifico dell'osservatorio Smart Working, che lo monitora. Però ha sentito, con delle linee telefoniche a volte così, come si fa a pensare di lavorare? Certo, dobbiamo sicuramente lavorare su questo, ma credo che possiamo assolutamente farlo. Ci sono anche delle splendide esperienze di spazi di co-working, quindi in alcuni paesi... Che è un'altra cosa ancora, quindi spieghiamola. Certo. Io non vado in ufficio, ma vado in un luogo dove altre persone come me lavorano da casa, quindi comunque incontro qualcuno. Tutti gli strumenti, socializzo e ho anche la possibilità di vivere nel mio paese potendo collegarmi con grande qualità a tutto. Vivere nel mio paese. Rocco ci ha chiamato da Torino, buongiorno. Dunque, io lei faccio, vive a Torino, ma non lavora a Torino. Esatto, io lavoro a Novi Ligure e quindi tutti i giorni faccio più di 100 km. Per andare a lavorare? Per andare a lavorare. Ci starebbe a casa? 3 ore al giorno perse. Certo che sì. Magari non tutta la settimana. Perché per non tutta la settimana? Perché bisogno di coordinarmi con i colleghi, con gli utenti. Io faccio un lavoro di supporto utenti che potrei benissimo far da casa. Più un lavoro progettuale da attuare in corso. Ha mai fatto i conti di quanto risparmierebbe lei? Allora, si è detto che si potrebbero avere 37 miliardi all'anno di benefici economici per le imprese. Lei quanto risparmierebbe? Certo. Se io risparmierei di certo 3 ore al giorno, 200 euro al mese. La mia azienda penso che risparmierebbe 400 euro al mese. E quindi perché per il costo auto, carburante e tutto il resto. Non avrebbe paura della solitudine del lavoratore da casa? No, io stavo parlando comunque di non 5 giorni a settimana, non... ma un tempo più ridotto. Un tempo più ridotto, che sembra essere appunto la via di questo smart working. Allora, vediamo se abbiamo ritrovato Letizia Villa, buongiorno ancora. Sì, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, diceva, sono aumentati gli assenteismi, cioè quello che sta a casa e quindi fa ancora meno? O no? Ma no, assolutamente. Cioè, deve essere basato chiaramente sulla reciproca fiducia, questo rapporto. Cioè, non si può pensare, cioè, l'amministrazione pubblica non deve pensarsi solo come un controllore del lavoratore che non fa il lavoro dall'ufficio. Perché se si prescinde da questo, cioè, è finita. Cioè, il lavoro, le persone, anche i dipendenti pubblici, sono assolutamente responsabilizzati. Cioè, il rapporto, devo dire che per la gran parte sono persone responsabili che svolgono il loro lavoro da casa come dall'ufficio nello stesso modo. Chiaramente e sono un po' più vincolati, diciamo, a un rapporto che, come diceva il signore che sentivo prima, comunque non può essere fatto un lavoro da fuori tutta la settimana, è necessario comunque un raccordo con gli uffici. Era l'idea, la vecchia idea del telelavoro, stai sempre a casa, no? Adesso c'è quest'altra cosa che si chiama appunto lo smart working, cioè lavoro certo. Un po' a casa e un po' no. E un po' no. Dipendenti più felici, più efficienza? Ma secondo me sì, guardi, perché se si agevolano le condizioni di lavoro e quindi la riduzione dei tempi, cioè lavorando nei momenti in cui si è anche più liberi anche dal punto di vista psicologico, non meno legati ad alcuni problemi che comunque ci portiamo tutti i giorni in ufficio normalmente, quando si lavora sicuramente nella condizione ottimale. E quindi secondo voi è andata bene? Torniamo ancora da Alessia Mosca. Avete preso in considerazione anche queste realtà? Perché... Quelle del lavoro pubblico? Sì. Assolutamente, anzi il lavoro pubblico pensiamo che possa essere di grande traino per anche il lavoro privato. Abbiamo sentito proprio nella fase di consultazione sulla proposta di legge un'amministrazione, quella di Trento, dove da tempo si sta sperimentando, ormai è diventato a regime questa modalità, e ciò che emerge è esattamente quello che veniva raccontato poco fa, cioè esattamente il contrario rispetto alle preoccupazioni. Esatto, qui adesso c'è già, i nostri ascoltatori si stanno scatenando, questa mattina. Un altro lavoratore pubblico per controllare il lavoratore pubblico. In realtà pare che l'assenteismo invece si abbassi. Si abbassa, aumenta la produttività, diminuisce il livello di frustrazione di chi appunto deve di fare corse. Solo degli orari che però poi non corrispondono a quanto si produce, quindi io credo che questo possa essere un elemento di grande innovazione proprio di un settore dove nel nostro paese c'è bisogno di fare ancora passi in avanti. E in più, questo l'abbiamo ricordato poco, ci sarebbe anche un grande risparmio. No, ne abbiamo parlato, come no? Ne abbiamo parlato all'inizio, perché era questa la premessa, si risparmia. Grazie, allora vedremo che succederà, se sarà davvero questo il nostro modo di lavorare. Grazie a Alessia Mosca, deputata del PD, buongiorno. Grazie a Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, che proprio questi dati sul risparmio ce l'ha dati, buongiorno anche a lei. Maurizio Del Conte, docente diritto del lavoro alla Bocconi. Lavoreremo in smart working? Sarà questo il nostro futuro? Vedremo. Intanto noi questa storia abbiamo voluto raccontarvela. Lunedì torna Alessandro Milan. Non mi resta che dirvi una cosa però. Forse con lo smart working qualche costume italico davvero lo perderemmo. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Chissà se tra qualche anno tutto questo sarà un ricordo. L'uscita della sera aveva lo stesso rituale della partenza dei 100 metri di una finale olimpica.